fatta tanto valengan lombo se sho non la dariambo badendan mani se vengan pai pai giorno lucky bacalai calo lucky bacalai ti gandia din calavai ole sio sio sai a me la rasa sayang sayang bada me Pagi payung Toto ruga batelor Shonona la dari ambon Datang kawing di kantor Kawing pai pai Jangan laki bakalai Kalau laki bakalai Digan dia di kalawai Oleh siyo Siu sayangi La rasa sayang Sayang badani